ultimamente stai avendo problemi, non lo so perché. Avanti Fabrizio. Non credo che c'è dell'alimentazione, l'avevo rifatta, io credo che il problema non abbia più dato. Lavori che sta portando l'alimentazione, può essere che magari là c'era, a parte che c'è basso di radio già, non so che microfono stai usando. Basso di radio? No, scusate un attimo, sono alla bassa. Adesso sì, adesso è alto, poco fa eri basso, forse eri lontano dal microfono, adesso va benissimo. No, parlo ormai di che sto abbassato, guarda adesso. Perfetta, come ti sento sempre. Potrebbe essere quello che magari l'interruttorino, qualche falso contatto. Un difetto strano, cioè tutto può essere, ma. Se mi schiappa, ecco, si sentiva questo fisco, una cosa del genere, mi danno sotto che Claudio già. Adesso però mi sono reso conto che il commutatore tra AM e USB era al centro, non aveva fatto lo scatto, che non sia liscio, che magari commutato male sia quello lì. Forse sì che qualcosa, sai cosa, qualcosa che gli gira, qualche corrente, non so nemmeno come è fatto il commutatore adesso per velocità, comunque lascialo così, e magari se gli togli un po' di gecko è meglio. Ecco, così va bene. Sì, così va bene, se ne puoi dare anche un po' di più, no? Poco fa era troppo, non so, un po' troppo era poco fa. Ok, proviamo così a vedere, segnale com'è? Segnale se è quasi 9.30, no va bene, adesso va bene, avevo un riverbero, adesso c'è un riverbero che è anche piacevole, però quando fa troppe ripetizioni diventa pesante. Guarda adesso il segnale com'è, 1, 2, 3, prova. E adesso sei più o meno 9.40. Anzi non ferma già, te l'ho detto, facci pure che sia quell'interruttore come ti diceva Fabrizio, è da vedere, bisogna lasciarlo in funzione per vedercelo rifà. Sono spuntato tutto il microfono Fabrizio, che è tutto pulito con l'aria, non mi sono spesso per contatti a tutte le parti dei cursori, del PTT eccetera eccetera, ripiazzato, sembrava che andasse bene e poi di nuovo me l'ha fatto. Ma quel difetto? Allora, sempre quel difetto, si mischia, ecco, con questo fischio, è una cosa allucinante, non esce bene, la popolazione proprio non si sente quasi nulla. Quando te lo fa però, se te lo rifà, magari era quello lì, è probabile, ma se te lo rifà, metti un microfono normale e provi col microfono suo del Galaxy, per capire se il microfono era a radio, magari il microfono anche, che ne sai? Già fatto con la cosa, con la prova lì, la stessa cosa, ho provato con Claudio, mi chiedi, ho provato, messo il microfono normale lo facevo lo stesso. Lascialo così, magari potrebbe essere quello. E poi sono difetti un po' strani poi, perché vai e trova qualche condensatorino, qualcosa, qualche cosa in perdita, per carità. Comunque lascialo così, magari era quello, non so cosa dirti così non mi viene niente in mente. E io vabbè, se in caso me lo rifà, al limite ti chiamo e te lo faccio sentire. Ma magari non te lo fa, magari era quello. Giuga, 9.40 arrivi quasi Fabri in questa scala, cioè secondo me 9.40 il segnale, proprio su sì. Cos'è che io sto usando sempre la Stellar, che poi è per modo di dire perché è stata ricostruita completamente, per ne ha avuto quelle che non se ne trovano più, se non avrei comprato una da Manta, però non ne trovi più di antenne così. Tu cos'è quell'antenna che era caduta, tutto lo stelo centrale gliel'ho ricostruito in alluminio, quindi gli ho fatto tutti i pezzi. La gabbietta di Faraday di su gliel'avevo ricostruita, infatti sono un po' storta. Col tempo, non so se vi ricordate, la Stellar aveva la bobina interna con un affare in trasparente, in plexi, a quello l'ho rifatto al tornio, però poi l'ho fatto in PVC e quindi non è più trasparente. I radiali li ho tutti ricostruiti perché col tempo si sono roba. La tappa, ogni tanto gli metto mano, la smonto e la revisione e ne ricostruisco un pezzo, e non per non buttarci 150 euro, 120 euro, e che non se ne trovano più antenne così, il problema è quello, quindi la porto giù e gli ricostruisco quello che c'è ricostruito e la rimetto su. Ultimamente, ti ripeto, questi cavoli di di storni a migliaia sopra le antenne. Ha detto, vedrai che almeno quelli, infatti quelli, uno l'ho recuperato, altri tre li ho sono spariti, chissà che qualcuno non esca con qualche freccia nel petto, lo verrà a girare, e poi gli altri sono saliti, alla fine erano mezzo staccati, solo due, ce ne sono due mi sembra, due o tre se sono salvati, ma gli altri cinque se li ho dovuti ricostruire, ma fai veloce, poi andiamo a fare da otto, gli metti, compri le stecche che le vendono da Bricco, che sono da otto, e io ho fatto anche un po' più corti, comunque intorno al metro e 30, sono 32, e gli prendi un buloncino da otto, un acciaio inox o quello che vuoi, comunque lo metti in acciaio inox, glielo tornisci, però glielo ho detto, glielo tornisci da una parte e gli fai la spina da sì, e poi glielo metti a pressione dentro, e poi come fanno loro si fa la bulinatura per dargli una sicurezza maggiore e lo ricostruisci il radiale, però poi prima o poi secondo il peso che ci mettono te lo spacca. Io invece gli avevo fatto un buco, messo un bullone passante e me ne hanno spezzati anche quelli ripieni, no? Hai preso quelli ripieni oppure quelli vuoti dentro? Cioè, quelli vuoti, perché quelli ripieni, allora con quelli si potrebbe, ci sono due, allora con quelli pieni da 8 li devi praticamente, perché devi prendere da 8, sempre sono quelli da 8, so, qui ce li prendo da 6 e poi li filetto uguale, però no, sono da 8 la filettata, quindi prendi quelli da 8, li dovresti fargli il filettarli con la filiera oppure metterli attorno, cioè li filettarli, e poi è a posto, quello è un lavoro, cioè. Se invece li prendo uguali come erano prima, quelli da 8 che dentro sono un millimetro per parte, quindi dentro è 6, prendi un buloncino da 40-45, gli tagli la testa, prova a tornito, li devi togliere 2 mm di roba, che loro entrino all'interno, li butti dentro a pressione, e poi gli dai un po' di libulini, come fanno loro per bloccare, i lavori sono tutti fatti così, gli dai due bulinature per bloccarli per sicurezza e loro sono a posto, tutti e due vanno bene, tanto guarda non cambia niente, se te lo devono aspettare te lo aspettano uno o l'altro. Sono tornato. Sì, io ho messo anche la lenza, quella per pescare i grunghi, per tenere i radiali, con i pini, hanno volato di là e l'hanno spezzato lo stesso. Sì, magari cosa gli puoi mettere? Gli puoi mettere della lenza legata, perché se te li spezzano magari non volano e diciamo che sali, li prendi, li recuperi e li rifai lo stesso lavoro e non stai a comprare altri radiali, per dire, tagli un pezzettino, tanto la lunghezza è relativa, e li recuperi già. Però solo per quello, io ogni tanto cadevano nel terrazzo, questa volta tre sono spariti proprio, chissà che fine hanno fatto, tra vento e tutti quegli storni che si stavano appoggiando, chissà saranno caduti da qualche parte, vai e pescali. E chi lo sa, il pericolo che non cadano sopra qualche macchina, facciano danno, quello è il problema. Ma ci sono diverse antenne adesso che le fa la Sirio, che sono molto simili alla Mantova e dicono tutti che va bene, ho letto alcuni forum, infatti io sono in cerca di un'antenna Siria adesso, perché questa qua non lo so fin quando dura, e quindi me la voglio comprare per la di riserva, di modo che quando questa qua non serve più prendo di l'acqua e mi metto questa. Sì, perché anche comunque queste state montando bui, sì, sono del 5 ottavi, però non hanno il piano di massa, comunque soffrono, ma non possono andare così. Un progetto diverso, per cui quello che usiamo noi in 27 vai, conviene trovarne quelle 5 ottavi, io poi le altre non le ho mai provate, ma credo che più o meno siamo lì, più o meno, non credo che ci sia molta differenza. No, certo che la paura è che cadano e facciano danno, cioè, mi dispiacerebbe solo perché poi dico ha fatto danno, per il resto a me non interessa, perché sia l'assicurazione dell'ARI comunque che per questi danni ti protegge, sia io ho fatto un'assicurazione particolare dopo l'incendio che ho avuto a casa, ho fatto un'assicurazione sempre con radiatori milanese che non è che ha inventato niente, ha usato una pulita adattata a livello proprio radiatoriale, quindi Inteso che fai conto che e qui è stata fatta anche da lui in maniera tale che non ci possono essere, sai, e no ma non era installata ad hoc, e no ma non era, non gliene frega niente, è una pulizia fatta ad hoc, quindi fai conto che cade un fulmine e ti brucia come mi ha fatto lì, mi brucia tutte le danno che mi ha fatto sulle apparecchiature. Quale avrebbe, sarebbe intervenuto? Adesso usando una radio, mi si brucia, l'assicurazione interviene, io vabbè, ho fatto anche la scheda dell'antenna, ha fatto danno, però io l'ho presa, l'ho comprata io per quanto l'ho pagata, 150 euro quella scheda, 200 euro, ma preferisco non esagerare, capito? Perché poi quando tu esageri, certo, però non ne vale la pena, conviene solo attivarla solo in caso, sai, un grosso danno ti fa qualche migliaio di euro di danno sulle apparecchiature, allora conviene attivarla, perché se no prima o poi ti buttano fuori, nel senso cade il traliccio, non solo cade il traliccio e quella anche la pulizia dell'aria risarcisce i danni a terzi, no, cade il traliccio, ma comunque oltre danni a terzi ti viene calcolato quanto ci vuole per l'installazione del nuovo traliccio, le nuove antenne, tutte le nuove apparecchiature, quindi rimborsa anche i danni che sono stati fatti a te, ti cade sul tetto, magari ti fa danno sulla tua proprietà, ti ripaga anche le tue proprietà, e dentro poi ci ho messo l'incendio, furto, che poi gli incendi che puoi provocare, scaturire la casa tua e quindi puoi fare danno ad altri appartamenti, il bambino gioca col pallone, rompe la televisione, e certo, il furto che ti possono fare all'interno della casa, lo scasso, tutta una serie di cose che è la classica pulizia che si fa negli appartamenti, però diciamo perfezionata e modificata perché è una stazione radio. E non costa, non ti credere che c'è quella base che non costa molto, io forse ho speso anche il doppio, un po' di più, perché ho aggiunto furti, incendi e tante altre, ho aumentato i massimali eccetera eccetera, alla fine parliamo di una pulizia che ti costerà 3,50 mi sembra, 400, comunque fai 3,20, 3,80, non me lo ricordo, comunque sotto le 400 euro ti costa, ma c'è una copertura impressionante, non solo i danni che fai a terzi, ripeto, ma fai conto, adesso un vento brutto, cade il traliccio, io cioè il traliccio ha un costo, quelle antenne che c'ho sopra mi sembra solo l'antenna dinamica e la ultra mi sembra costa 5.200 euro, voglio dire, non sono bazzecole, quindi tutte le antenne, rotori, puttanate, magari cadete, magari è fatto, penso, 8-9.000 euro di impianto di antenne che è rotto, magari ti è caduta sopra, magari quando fai il piano caracare, ti sfasci il petto, poi magari hai fatto 20.000 euro di danno, fai veloce a farli i grandi. E quelli ti rimborsano, oltre quelli che hai fatto a terzi, anche i tuoi, quindi alla fine conviene pagare, perché tu dici ma siamo assicurati come aria, va bene, sei più sicuro, avere una pulizia specifica, tu paghi, sai che ogni anno devi sborsare, come avere un'assicurazione in più su una macchina, però dormi sonni tranquilli. Quello sì, magari se ci avessi pensato prima a farla, avessi recuperato anche i soldi, uno ci pensa dopo che succedono le cose. Purtroppo è così. Avanti, poi mi fai girare. Sì, è così, riprendi qua, che ha parlato anche troppo. Claudio, cioè, bombo, lo riprendi, non c'è più nessuno, ho fatto scappare tutti. No, è così, sicuramente dovevano chiudere. No, sono qua, mi sto preparando, Fabrizio, devo portare il cane, che non mi raccolto, sono già le 8. E anche io sto aspettando, che devo andare a prendere qualcosa da mangiare giù, che... Ah, è chiuso, quindi niente, non devo andare a prendere niente, è tutto chiuso oggi. Beh, normale. Beh, io mi allontano, ciao Fabrizio, piacere averti ascoltato, ciao Gianni, se coincide ci sentiamo dopo. Saluto Antonio, saluto a Tonino, saluto a tutti, dai, a più tardi. Riprendi Fabrizio, ciao. Ti riprendo io, ciao e buona passeggiata per il cane. Tonino, vediamo se c'è ancora Tonino. Dove doveva aver chiuso? Fabri, ieri ho cambiato tutti gli spezzoni, ho preso e ce li ho tutti buttati nella spazzatura, pensando che fossero qui, cambio tutti gli spezzoni, metto a posto il microfono, smonto tutto, guarda, sono stato tutta la sera facendo con un Alzheimer addosso, perché questo apparecchio mi piace, purtroppo è un apparecchio che a me sempre piace, ma non lo voglio perdere, capito? Mi sono accorto solo adesso questa cosa della commutazione, lo sai? Può essere quello, perché ma non è che eri tra una banda e l'altra, perché per te c'è un gioco che va avanti, ma come fai la commutazione? La commutazione, quindi praticamente commuti, cioè da M, FM, eccetera, eccetera, quindi stai cambiando modo, e lì noi sono, non so, bisognerebbe vedere su quale parte poi vai a incidere, a togliere lì, a fare, non so, così è come, e quindi può essere che magari tenendolo in quella posizione potrebbe essere che una massa, un qualcosa gli mancava, non lo so, così può essere, certo che bene non gli fa. Scusate, mi avete chiamato? Sì, era a cavallo tra una frequenza e l'altra, sicuramente, probabilmente è quello lì, mi auguro almeno che sia quello, così non ti rompo le scatole di nuovo. E anche perché non ne gioco più, quindi ne ho uno di, sta facendo perdere la testa una radio di coso di, e non credo nemmeno che adesso la chiudo e la metteremo in vendita, e poi chi ne ha voglia sarà quella di coso di Roberto Quadrato. Cazzo, mi sono trovato peggio, ho trovato delle tensioni, una parte sta andando, continua a non funzionare, ha peggiorato ancora, ma è tutto SMD, non si capisce niente dalle radiografie, non sono chiari, quindi non riesco a trovare, per ogni volta devo fare una misurazione divento pazzo, non è possibile, infatti io roba SMD non ne metto più mano, perché ce la perdici troppo tempo e trovi, tanto poi è una catena, sono talmente delicati che è una catena che basta una fesseria, e poi vai trovi pure, cambi quell'integrata, arriva, conto che è perfetto, continua a dire, vai a cercare ancora, devi aspettare, no, ore, decine di ore, buttate sopra, no, non si può più, non è più, non si può quelle radio mettergli mano, se lo cambi, poi non trovi il petrolio, magari lo trovi dopo un mese, ti arriva perché dalla Cina, poi bisogna vedere se poi anche lui non ha più, ma è complicato il discorso, comunque non se ne può più. Sono tutti fatti a microcomponenti, quindi ci devi lavorare con la rete sicuramente. Fabri, ma perché l'820H è uscito dopo il 275H? Perché il 275H me l'avevi riparato con molta facilità, quello è uscito dopo, quindi è diventato SMD quello, perché il 275H non era SMD. Io non mi ricordo niente, se lo dici tu sicuramente te ne ricordi meglio di me, ne sei meglio di me di quando sono usciti gli apparecchi, io non so, sì, come questo è tutto SMD, questo è pazzesco, poi c'è roba sotto, sopra, ma questo è pazzesco, è tutto SMD. Cioè, da quei difetti che faceva, sono andata lì, ho trovato alcune cose, corriate componenti, lo metto via, lo riprendo, vado ad accendere per rifare dei controlli, perché adesso è completamente sordo da tutte le parti, cioè sordo nel senso che sembra che vada, ma secondo il generatore lui non né in V né in UHF non dà più niente, ma in trasmissione ma ovviamente non dà vatt, ed è, ho trovato un integrale, non arrivava, sono tensioni che mancano in vari componenti, e tu vai a cercare, ho trovato, ho messo, ma ancora, quindi adesso vai a trovare e troviamo, e devi andare così a ruota, ma noi come lì dici, ah, una resistenza a cambio, due secondi, ah, ecco, con il carattere che arrivi e fai, esci di testa, impazzisci, non è così, capito, non è così quel cavolo lì, quindi adesso c'è tutti questi problemi, ho sostituito un integrato dove arrivavano delle tensioni, adesso le dà lì, però da lì continua a fare il difetto, ho trovato, ma non puoi stare, non si può, perché poi tu vai ad aria calda, tutto va fatto ad aria calda, io uso il caschetto con le lenti CFR per poterci vedere bene, e una volta che intervieni, sostituisci, fai, c'è anche il problema dei componenti, ma non è solo quella, perché sicché prendo per esempio quando ho riparato il 900H, il mio, non è proprio, tu apri e dici ok, vai sulla parte di circuito, alla parte di circuito vedi che lì mi deve dare delle tensioni, perfetto, devo controllare, vado a seguirmi una logica di come deve funzionare la radio, la devo andare a controllare lì, voglio andare a controllare finché non trovo qualcosa che non va, vado sulla catena, no? Una volta che arrivo lì, che sto controllando, mi serve controllare, allora cosa fai? Dopo lo schema ci sono le radiografie, quindi vai su la parte, ingrandisci la radiografia e vedi, perché se non lo capisci, vedi in quella parte di circuito dove è quel componente, quindi vai a cercare lì, perché per non è come lì che vedi la resistenza, che la leggi, lì non leggi niente, quindi all'accetta, dici ok, lì c'è quel componente, vai su quel componente a fare la misura, lavori così. Il problema è che sul mio, sul 910, su quasi tutto, ingrandisci, sono bellissimi, vedi proprio tutto. Invece su questi cavolo di questo apparecchio qua, su questo manual service, vai come venite a ingrandire a vedere, tu non riesci a leggere il componente che c'è sulla scheda, quindi vai quasi a tentativi, assicuri il circuito, per trovare un componente ci vuole magari mezz'ora, cosa che lì in 2 secondi lo vedi, vai a colpo sicuro, e molte volte non ci arrivi nemmeno, perché non sono chiari, il manual service non è chiaro, gli schemi sì, ma non sono chiari le radiografie, per poter andare a trovare il componente su quella parte della scheda. Quella radio ha questo, cioè sembra bello da vedere il manual service, poi quando vai a cercare non lo trovi, a confronto di altre radio un po' più recenti, che i manual service della ICOM in genere sono bellissimi. Quello lì sembra bello, ma quando vai a ingrandire, ti ripeto, non riesci a trovare quel componente specifico sulla quella parte di circuito, non riesci a leggerlo, è tutto sfocato. Casino, SMD mi ricordo io che l'avevi detto da sempre. Se conoscivo gli SMD era un casino riparare. No, mi ricordo 275H che ti ricordi aveva avuto problemi di potenza, ma l'avevi riparato e ha sempre funzionato ottimamente bene. L'820H sicuramente è uscito dopo e quindi l'hanno fatto SMD. Dai, che già ce la fai a mettere a posto, a tempo perso già ce la fai, dai. L'hai fatto di peggio. Dai, vi risaluto, vado a portare il cane, vai Gianni. Claudio, un attimo Gianni. Vai, vai. Claudio. Dimmi Tony, stavo uscendo. Ma mi ha chiamato mio figlio, l'hanno fermato i carabinieri, ci vuole l'autocertificazione, ecco perché mi ha mandato in via WhatsApp così me lo sono scaricati, capito? Allora, vediamoci da me qualcuno perché io non ho né stampante né computer più. Se è fasciato tutto non ho più comparato. Va bene, poi ci aggiorniamo al telefono allora, dai, ciao. Ok, anche io sono da mangiare, sì, ne do anche a Gianni se ne vuole, io ne ho fatto 12 per adesso. Ne posso fare 100, 200, non è problema. Ok, buon proseguo, ciao Fabrizio, ciao Gianni, Claudio e chi c'è altro? Ciao, ciao. Sì, ma se non ce l'hai, non ti fanno studi e te lo fanno compilare, ce li hanno loro e te lo fanno compilare quello che hanno loro, non c'è problema. E se è già successo. Vabbè, Tony, comunque ti ringrazio, io devo andare a San Teodoro il 23, devo andare a San Teodoro. Non lo so se ci vuole o se non ci vuole, non l'hanno specificato questa volta. Mio figlio è ogni giorno che va a Nuoro, perché lavora a Nuoro, da Posada, e i carabinieri mi ha confermato questo, dice te l'ho mandato per questo motivo, punto. Scusa te, Tony, ma non è dal... noi siamo zona gialla, quindi possiamo circolare, è dal 24 che ci vuole una motivazione, o dalle 22 in poi. Fabrizio, avanti. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, Tony, avanti, Fabrizio. Sì, ciao, Tony. No, comunque che è dal 22 che ci vuole, dal 24 che ci vuole, e poi di giorno anche quelli dalle 3 siamo zona gialla ancora, dal 24 diventiamo zona rossa tutta Italia, e diciamo sono dalle 22 in poi, io stanotte non è forte autocertificazione, io ho anche l'autorizzazione dal prefetto, no, che posso uscire, però io non è porto, non me ne frega niente, non ho il tempo da perdere, al limite gliela compilo lì, non so se c'ho altro, gli faccio vedere quella del prefetto e via, non so nemmeno se c'ho più quella in macchina, no, non me ne affitti nulla, io posso uscire, punto. Poi però dalle 22 alle 6 del mattino la devi avere ancora. Ecco, sì, è così. Ovviamente al figlio Tonino l'hanno bloccato, secondo me rientrando, ma dopo le 22 lavoro, non so cosa fa, però dopo le 22 secondo me. O prima, dalle 22 alle 6, perché ancora adesso non ce ne vuole. Ciao, ciao a tutti. Ciao Tony. Ciao Tony, ciao, buona carica. Avanti, Claude. Il cane adesso lo porti, io sono sceso poco fa, visto che non stanno bene, adesso lo riporto verso le 8:15, 8:20, dai. E poi domani mattina lo porterò alle 6 di mattina perché devo partire, devo arrivare alle 8 all'aeroporto. Oh già, se niente più tardi ci sentiamo. Va bene, dai. Ok. Avanti, Fabri. Capito. così è, dovrebbe essere, poi io non lo so, cambiano ogni dieci minuti, sembra che cambino tutto. Infatti non lo sanno manco loro che cosa vogliono, è interpretazione, non specificano mai le cose come devono, arrivati a questo punto mi sembra di essere una forma di dittatura che ci stanno pilotando come vogliono loro, poi vedono che non va bene una maniera, ti fanno cambiare, cioè prendo tutta la roba per fare la cena a Natale con tutti quanti, eccetera eccetera, allora me la devo mangiare io, perché la maggior parte delle persone il 25 non possono venire, non si possono spostare, e quindi il 24 me la farò con i miei figli e la mia compagna a casa. Buonanotte, buonanotte, cosa devo fare? Il 25 poi andranno a casa della madre. Così è, perché altro non puoi fare. A parte che non si capisce questa cosa, che se si ha 14 anni si possono portare i bambini, due adulti, parla di due adulti, quindi se c'è un figlio come io che ha 17 anni, cosa lo porti? A parte che io vorrei capire questo, cosa si intende per adulti? È quello, voglio dire, così è, perché se io non ci sono, adesso mio figlio con mia moglie e il piccolino, sono sempre due persone, più uno piccolo sotto i 14, adulti cosa si intende? Il grande risulta adulto perché sopra i 14 e quindi sono sempre due adulti in macchina e uno sotto i 14 o cosa, e questo non si riesce a capire. Adulto dovrebbe essere maggiorenne, una persona maggiorenne adulta, gli altri sono ragazzi, non sono persone adulte. Io penso che sia così, la mia interpretazione è proprio da cui non so cosa vogliono, perché poi è capace che se la girano a modo loro, capito la situazione. Anche io dovrebbe, però poi adulto, ma io ho detto maggiorenni, cioè, rimani, e quindi voglio dire, se tu sei hai una famiglia di quattro, quello lì non può uscire, cioè non si capisce. Adesso per dire, i miei figli 24 sono a casa e 25 vanno a casa della madre, abita a due passi da casa mia, però intanto stanno rischiando andare, capito? Dormono qua, poi la mattina devono andare là, cosa fanno? Non ci vanno, lasciano andare da sola. Lo so, niente, vabbè, ma a piedi, non si capisce niente. No, io la macchina non invidio, perché se prendo la macchina, magari mi sequestrano anche la macchina, No, già sono vicini, Fabri, sono a due passi, non è che sia lontano. Il problema è che non li trovo andati, perché a quanto sia hanno messo anche i droni. E vanno correndo con la tuta, si sta facendo sport. Hanno messo i droni adesso, tutti quanti, vigili, eccetera, eccetera, lui sta facendo clown. Io comunque i giorni di festa sono in giro a Natale, Santo Stefano, sono sempre in giro da mattina a sera col lavoro. A me vediamo se mi blocca. E io ti denuncio. Buonasera, sono da Pottante che vi sto ascoltando. Ciao Fabrizio, ciao Gianni, sono andato a portare il cane, perché ha già il pelo corto col cane, se lo vuole portare. Comunque Fabrizio, per quanto riguarda i ragazzi, 14 anni risultano come grandi, diciamo, non maggiorenni, non parla di maggiorenni. È quello, non parla di maggiorenni, ma non parla di adulti. Adulti cosa intendi? È a libera interpretazione, cioè uno dice, allora, i ragazzi, le persone da 14 in su, le persone massimo due persone, 14 deve essere massimo due persone, e no, invece parla di adulti, quindi lascia, non lo specifica bene, cioè comunque il dubbio te lo lascia, perché come ce l'abbiamo noi, ce l'avranno gli altri il dubbio, non è che questi che carabinieri o poliziotti vanno che c'è intelligenza, gente che c'ha la terza media, non è che gente chissà cosa. Così, Scusi, ho sentito, poi lo sai, stanno cambiando ogni 10 minuti. Così vi ha capire questa storia di adulti, cosa si intende? Se mio figlio che ha 17 anni risulta adulto, o ancora risulta non adulto, ma non può uscire. Fai tu. Sì, ma nel caso, poi rilancio il mic a Gianni, nel caso che io dovessi uscire con la mia famiglia, non posso lasciare mio figlio in casa, perché se deve venire con me, deve venire con me. Sì, ma ti faccio il mio caso, io il 25 non ci sono, sto lavorando, ok, quindi c'ho un bambino di 12 anni e può andare in macchina con mia moglie, e nella macchina, se noi vogliamo andare dalla sorella, possono andare perché la legge lo consente, lui ha 17 anni, e se lo trovano cosa risulta? Due adulti più uno, e quindi sono in regola, oppure risulta un adulto, uno che ci sta bene, e lui ti dice, ma questo è adulto o non è adulto? Fammi capire. Oh yeah. Così, è un casotto un po' per tutti, dai. Riprendi Gianni, mi assento 2 secondi che stanno andando via i miei, così li saluto, dai. Ehi, poi c'è un'altra cosa, io adesso devo andare a Santiago a prendere la mia compagna, devo far viaggiare come i taxi dietro. Credo di sì, non lo so, se comunque è una compagna, alla fine, anche lì è una convivente, però non è nemmeno convivente, però è vero che, non lo so, ha preso per il QSO. Si è da Maruguru. Non si sa come comportarsi, Fabio, se devo mattugare un viaggio, 150 km, in casa faccio del tassista, Gastone. Quello è il minimo, il problema è che non si capisce niente. Riprendi il bombolo, io mi allontano un attimino che vediamo un po' di mangiare qualcosa, che voglio capire cosa fare un attimino, magari ci sentiamo dopo un altro momento, che io adesso voglio mangiarmi qualcosa e poi no, aspetta, devo lavorare. Papà, devi lavorare stanotte? Sì, stanotte mi aspetta. Ah, ok. Dove le chiama? Bisogna andare. Bisogna andare. Se no mi tocca uscire in 500. Ma tra la notte sveglio? Certo. Devi essere vigile. Ma davanti qua, vicino. Sì, già c'è caldo, diciamo, dai, non è, sono in ufficio, però tracciamo le manovre, ieri notte avevamo dei problemi, infatti, quindi un po' di più in giro, ma in linea di massima, non mi devo lamentare, io però devo andare, capito? Ho fatto 14 anni, il giornaliero, poi ho iniziato a fare questa nuova attività e la verità, devo essere sincero, non tornare indietro, perché comunque dal lunedì al venerdì, poi il sabato andavi perché comunque c'era sempre qualcosa da fare, quindi dovevi andare in strada, e poi i reperibili ti chiamavano tutte le ore, e comunque gli appalti vanno seguiti, le ditte appaltatrice qui, e pagamenti, tu, c'è tutta una serie, questa è la situazione, capito adesso, quindi preferisco il mio, faccio il mio, tranquilla, quell'ora sta come ne vado, ciao, e ho tempo libero, non ci tornerei più a fare il giornaliero, me l'ho proposto, ma non ci tornerei più. E magari va anche meglio come stipendio, facendo l'otturo ti pagano anche di più. Già, e dico cosa guadagno io, forse non ci arrivo un medico, capito? Se torno in manutenzione per prendere quello devo lavorare un bel. Già va bene, quando è così va bene, non c'è problema. Capito, non mi devo lamentare, capito? Per prendere così devi fare come la macchinetta in manutenzione, l'ho già fatto, seguirei, lì invece lavori alla fine 14, 15, 16 giorni, dai, al mese, esagerando 17, ma non ci arrivi con i turni. Per quello che sono toccati tirare in 500. Ma cosa fai il di travaglio? Ma io vado a cantare i miei bombolo lì, con l'altro che secca, ti porto il microfono e canto. Davvero, bella voce vai. Perfetto, sto matto che non ne posso più, per non far addormentare gli altri, capito? Ma così è. Mi ha azzeccata la sassarisa. Ti ti fa vedere in quattro. Aspetta, a me piace cantare sassarese. Io canto un metto un altro, capito? Quindi vado lì e mi danno anche l'incentivo, perché così non dorme nessuno. Io metto a cantare e li tengo tutti svegli, così aumento la produttività. Ci ho rientrato, vai. Ma anche Antonio è il giornaliero, Fabrizio? Jackson è giornaliero lui, sì, lui è il giornaliero. Sì, perché lo sento a volte, c'è la Radio Alfa che sta rientrando a quell'ora lì. Va bene, va bene. È un lavoraccio, ma già retribuito, l'ho fatto anch'io, il turnista. Già si può fare, poi sei molto ma molto più libero rispetto al giornaliero, come ha detto Fabrizio, perché il giornaliero ti impegna tutta la settimana, poi hai la reperibilità e in pratica travagli sempre, con tante tante rotture di scatto, mentre quando c'è il tuo turno fai i tuoi turni e boh, alle invece buon viaggio. Eia, è così. E poi il contratto è come deve andare, per farti capire la differenza tra gli altri contratti di lavoro. Io ho la nostra maggiorazione notturna è una maggiorazione del 123%, quindi se un giornaliero guadagna 100, io ne prendo 230, capito? Per capirci. Non penso che ce le abbiano in altri contratti queste maggiorazioni. Oh Fabrizio, tu immaginati, io col contratto regionale, quell'ultimo che ci avevano fatto, la maggiorazione era, mi sembra, del 65% in notturno, ho fatto il conto, la metà praticamente. Un po' più della metà. No, va bene, va bene. Anzi, la metà, perché se sei 12, anzi più della metà tu prendi, più del doppio. Va bene che va bene. Voi ci avete delle agevolazioni allucinanti. In tutto e per tutto. Un ottimo lavoro. Va bene, vai, ci devi andare. Ci sentiamo magari dopo che hai cenato. Ehi, dai, vi saluto a tutti, ciao, che faccio QRT. Ehi, mettete un apparecchio in macchina, così quando scendi parliamo, come facevamo qui. Ah, sai, c'è la buca di burro, le bue, le u, questa macchina nuova sicuramente non è, l'altra c'aveva la base magnetica nel cofano di dietro, gatto, e poi che aveva, gatto, però aveva fatto l'impiantino, ce l'aveva, ma adesso in questa non penso che ne faccia. E beh, bombolo, tutto non è bugato. Tutto a posto, tutto bugato, tutto a posto. Cazzo, con questo inter che ti sento più saturo del solito, agganciato sì. Sono tornato, E tu portato dal cane? Oh, Luca, non ti avevo accoppiato poco fa. Sì, sono rientrato adesso, mi sono rimesso il pigiamino, mi sono fatto anche il lavaggio dei piedi. Bene. Babbo, ho sentito che Fabrizio se n'è andato a fare carica. Ciao Fabrizio, ci si riascolta. Gianni. Io saluto Fabrizio, saluto tutti voi. Io sono a portare il cane. Allora, ci sentiamo dopo magari qua, se ci siete. Dai. Intanto attacco qua perché voglio sentire, ma secondo me era proprio quello lì, era proprio quel difetto lì che l'avevo messo tra la R e l'USB, e per quello che facevo quel problema. Ma lo sai che ci ho messo le batterie, Dove? Il portatile. Beh, funziona bene. Alla grande. Arrivi Antò. Ciao Antò, qua non arrivi, Qua c'è l'OP5, scendiamo dopo, apri, lo lascio acceso l'apparecchio, vediamo un pochettino se si comporta bene, così scatta. Lascia già, sta andando benissimo, probabile pure che era qualche falso contatto, qualcosa che si è messo a posto, vai, avanti ti. No, te l'ho spiegato cosa era, tra la M e l'USB l'avevo messo, invece che metterlo in AM, era tra la M e l'USB il commutatore. Eppure sì che era quello, quindi lascialo stare così adesso, perché è strano. C'è una volta che poi quei lavori che ha fatto Fabrizio sono lavori eterni, io quella che l'ho fatta a me sta ancora funzionando, ma sono passati anni e anni, quindi siamo un problema. O è un altro problema oppure era questa tua disattenzione, no, non penso che ci sia altro. Per il momento sta andando bene, mi auguro che continui così mi faccia l'alzare. Come qua. Ho tanto agganciato, sì, ti ascolto più saturo del solito con questo Inter, con gli altri no, con questo sì. Adesso non posso essere agganciato, claro. Ma adesso sei sganciato, sì, adesso va bene la radio. Però questo Inter, base, Quando agganci ti porta via un po' più di radio, lascia la colonnina, mentre gli altri non lo fa. Avanti ti. Eia, siamo qua. Questa come si sta comportando? Sempre la solita? Ma per il bene ne avete? A voglia. Salsiccia abbiamo, ti interessa? Ma qua ce l'ho già. Tutti. Dimmela. Ma va bene questa, va bene. Va bene, mandami un messaggio però a quanto, perché ho visto la foto che mi ha mandato Luca. Abbiamo fatto assieme. Ce lo sto maturando. No, l'ho vista dall'inizio e poi la cesta che mi ha mandato piena, capito? Ma l'ho vista anche in lavorazione. Mi ha mandato un video che tu hai fatto così con l'occhiolino. E allora? Sì. Ah no, l'ho vista. C'era anche Dio Battianna. Bene, saluta, ma anche a mamma saluta. Cos'è che vai per il ve? Cosa vai a Bozzi? Buona la salsiccia che hai assaggiato a casa, buona era. Certo che era buona. Allora, va bene, io alla fine non è che ne mangio assai. Non posso mangiare, devo stare attento a quello che ho. Roba grassa zero, no? Ma poi non... Prima sì, dai, prima mangiavo di tutto. Allora me ne fregavo, poi quando ho iniziato ad avere dolori allora ho accumulato un po' di cose. Se no, se mangi troppo poi no, non funziona più me. Allora non funziona più la periferia da voi. Gappa. Ah ecco, me l'ha mandata C. Luca. Va bene. Ehi, kappa. Questo bene mi ascolti ti di radio? Sì, ma non è lo solito, sei un po' più basso e basta. No, vabbè, sono sganciato, questo non è allineare. Adesso lo provo ad agganciare, questo è quello piccolino, e questo è l'Inter. Guarda se sale il segnale, da così salito, e la radio è sempre uguale. Radio sempre uguale, fai da 9.10 a 9 quasi 30. Radio funziona, già va bene. 9.30 modulati, sono fai 25.30. Già va bene, allora dai. No, non ho notato mai questo Inter, perché è una radio molto strana. Esce benissimo. Aspetta che sgancio, io non me la futti nulla, ecco qua. Che ho provato, quello è il lineare che ti ho detto, tanto vedi come sale. Però lo tengo staccato, non me la futti nulla. È una radio molto strana, funziona benissimo, ma c'è una recezione di cazzo che non viene bene a dirlo. Solo con la colonnina esterna sento bene. Non lo so, no. Mentre Midland 574, l'Innoit, il Pony, il Pace, lo Standard, il DAC, cazzo, qui diciamo la ricezione favolosa, anche la ricezione, quindi devo mettere la colonnina esterna per poter ricevere bene, però come trasmettitore è perfetto. Vai, vedi ve. Dai, sto facendo roba qua, dai, riprendi voi, rimango in ascolto, la riprendo dopo. Ehi, vai, ti. Aspetta che ti sto scrivendo un messaggio. Questo che ho io invece, per la verità, tutti e tre gli apparecchi che ho io c'è una bellissima ricezione. No, Anto, ma questa è nuova, nuovissima, no, non posso dire niente, me l'ha fatta avere Gianni, è perfetta. Che cosa che ha l'altoparlante? Però è talmente piccolino, io ne ho, da poterglielo sostituire, che non ci ho provato a vedere se ci sta nella sede, all'interno, capito? Devo trovare qualche radio vecchia, toglierlo da lì e metterglielo all'interno, perché per il resto è una canonata, c'ha 10 watt, c'ha tutto veramente, molto completa, capito? Però l'unica cosa che la colonnina non mi piace. Cazzo, allora è crepata. Non lo so, abbiamo fatto le connessioni Luca e mi ha detto che era tutto a posto. Non sembra rotta, è proprio la seguo uscire a radio, poi c'ha il tono, c'ha il delta tune, c'è un sacco di cose, c'ha la scheda eco da collegare già interna, col pulsantino fuori, puoi inserire l'eco, bip, tutto. È molto completa, 40 canali, molto completa, va sia a 220 che a 12 volts, capito? Io la sto facendo andare a 220. La ricezione non mi piace. Che cosa va? magari però se tu senti bene con la colonnina, con la colonnina sua non la senti bene, no? C'è qualcosa che non va, cioè. Oh, guarda, ciao, sto parlando esterno piccolino, sempre della Intec, no? Quelli quadrati piccolini che gliel'ho messa dietro, non si vede neanche. Riceve che una canonata. Con l'altoparlante solo va una ricezione, così cuppa, non è che non si sente, però è cuppa, capito? È molto cuppa rispetto all'altoparlante esterno. Però come radio, vedi, esce bene, c'è l'MB più 5, va bene, non è un problema. Avanti, ti. Bene, allora ti ho mandato un messaggio, poi vediamo, Vabbè. Adesso me lo vedo come metto le piccitti, però. Via. Andiamo bene come radio. Ti ripeto, è appena più bassa del solito, però se è andata a incrementare quando è attaccata, va bene. Antonio. Sì, dimmi. Pompa, io pompa. Che? Così. se ce l'hai bisogna usarlo, Ah, lasciamolo attaccato adesso, cosa tratta? Lasciamolo in letargo, lasciamolo. Un alimentatore da 5 ampere e basta adesso. Ecco, andare. Ehi, a te, ti ho dato un occhio, poi ci sentiamo, dopo. Va bene. No, beh, ce l'ho il linealettino per tutti i baracchini, però io li voglio usare così come sono, non me ne frega niente se il segnale è più basso, se... se no non sarebbero vita, c'è chi ha 4 watt, che ne ha 5, questa ne ha 8, 10 modulati, c'è il DAC vabbè che ne ha 25, quindi non c'è bisogno, però li accettiamo lo stesso, per farli funzionare già vabbè, se poi c'è qualche rompipalle allora già ce l'abbiamo qua nel banchettino alla fine della base, da solo, l'ho collegato, c'è l'RM Italy. Già l'hai visto, già funziona. Esatto, faccelo sentire, ragazzi. Mettilo qua, mettilo il remake Italy, per vedere l'incremento che ha. Te l'ho fatto vedere, quello lì ho attaccato. Allora, adesso è spento ed è in terza. Vediamo. Eccolo qua, così attaccato, ed è in terza marcia. È fatto da 18 a 25, però quando muri vai anche oltre. Vediamo di tirare su. Ecco qua. Così dovrebbe essere in quinta, mi fa, cazzo, devo dire che è PC. Così dovrebbe essere in quinta marcia. 9.30 a pieno. Mazza che se ne varia. Quindi qua, così attaccato e così attaccato, quindi già c'è l'incremento. Allora fai 9.18, 9.30. Già funge quello, già funge. Però l'ho attaccato, sì, intanto con 10 watt già arrivo a tre parti, ti ripeto, se poi c'è qualcuno, c'è qualche portante, c'è qualcuno che non può le palle, allora collego, se sono col baracchino, se sono col capo non mi frega niente. Ah, si sente la differenza tu? E la radio rimane sempre quella, Più o meno sì, dai. Si sente sì la differenza, provate ad attenuare. Se 9.25 attenuato è fondo scala senza attenuare. Guarda questo tra, questo è neanche il vato della sua radio. Guarda l'incremento che ha questo, Antu, dopo mi dici se cambia anche da te. Adesso ha 3.5 watt, guarda. Mappa di nevaria. L'ingresso 3.5 watt. Ho l'ingresso 3.5 watt. Allora così ce li ha tutti. Così ho picco massimo 5 watt. Adesso c'è cambia. Vai, allora con 5 watt sì, 9.10 abbondante e poi vai a 9.30. Anche qua cavolo, quando arrivi sei 9.30, non proprio a fondo non sei, però arrivi 9.30 attenuato, arrivi 9.10 attenuato. Claudio vabbè mi arriva più forte molto di te. Già lo credo, Claudio è più alto. Io adesso sinceramente non so se esce a vedere. così è al massimo della potenza che potrei dare, però forse rovino la radio, eh. Ora, ora, così guarda un po'. No, così rovino la radio. Infatti. Ma io ho anche la tre fatto, guarda. Allora, ecco qua. Questi sono i tre watt di ingresso, anzi neanche, tre watt modulati, se no neanche una tua watt. Va bene, sì, va benissimo, alla grande, considerando che stiamo usando dei baracchini, cosa vogliamo di più? No, non c'è niente da fare. Va bene, avanti Anto. Antonio. Però che sia funzionante, un B550, capito? Perché devo dare il B300 a un amico, ve la serve, la mettessi in macchina, ho detto procurami un B550, e allora lo procuro. Io ti do il B300 e tu mi dai un B550, ti ho la rifatta, non me frega niente. Facciamo bravi! Cosa? Un po' di radio, vero? Sì, va bene. Molto aumentato così. Non sei un po' saturo, eh? Lo so, quanto è aumentato però di segnale. Devi fare un passaggio senza, anche adesso sei quasi 9.20. 1, 2, 3, prova. Adesso sei 9.18. No, 1, 2, 3, prova radio. 9.22, sei poco più del 9.20, dai. Sto dando tutta potenza, Sì, va bene, però ti ripeto, dai un po' di radio in saturazione, perlomeno per come ti ascolto io, Tu qua come passa, da così a così com'è? Guarda, sono solidale e continuo, praticamente come fai? Da 9.10 a 9.20 come sempre, però vedo che ti porta via un po' di radio. Cosa stai usando? Il 747? Sì, ma io ho troppo ingresso a ciò, troppo ingresso. Non va bene. Perché io ti faccio ascoltare una radio, adesso non so se ce l'ho attaccato qua, credo di sì comunque. Con Lincoln però, e la modulazione non cambia. Ma questa c'ha 11 watt di ingresso, 11-12 watt, già non credo che non va più bene. Ma vedi perché io ho l'RM Italy e c'ha 20 watt di ingresso il mio, perché quello HF l'803, e questo c'ha 10 watt e vedi che non satura. No, ma infatti io a te non ti ho detto che ha cambiato la modulazione, ma Antonio si sente molto, va a comprimere. Io adesso guarda, ti attacco un'altra radio Antonio e mi dici se cambia qualcosa o meno, dammi 2 secondi. Sono ritornato al Rosmet, vai. Uno è stazionario, l'ho tolto perché non va bene. Guarda, questo è un altro radio, è un Lincoln, un presidente Lincoln, così è senza niente. Guarda un attimino, così è senza niente, adesso lo attacco. Adesso ha incrementato un pochino, credo. E dimmi se ha cambiato la modulazione. No, non ha cambiato nulla. Però troppo ingresso non va bene questo apparecchio qua. Deve stare così normale. Eia, Claudio, guarda tu invece, dammi un controllo tu così e senza niente, 1, 2, 3, prova. Sono un po' che non lo offro questo, Adesso gliel'ho attaccato. Vedi se è aumentato un pochino. Aumenta la radio anche, aumenta di segnale, vai 10 più e aumenta anche la radio, non la abbassa. Ma non va in saturazione, non la comprime. Ma aumenta addirittura, la fa ancora più forte. Eccolo qua, aspetta la prima. Ecco qua. Sì, poi dipende dalla radio a radio, cambia un po' la timbrica della modulazione per quanto riguarda i microfoni, però credo che non la distorca. Oh, va bene, la prima chiamata Anna T. Tu me lo vedrai al 747 di entrata e più ti rendi lui. Magari dandogli più ingresso, magari raggiunge anche a darti 80, 90, 100 watt, però vanno a comprimere, mentre invece che adesso tu gli dai un ingresso minore e ti dà per dire 70-80 watt. fatta, ma te li dà belli chiari, capito? Poi poco cambiami da 70 a 100, non ti credere, non ci muovo quasi nulla. Fanculo, spegni. Lo so, adesso facciamo una prova con l'Intec, il portatile, e faccio una prova a vedere come esce. Sono convinto che va alla grande, guarda. L'attacco. Quindi agganciato e sganciato ti arrivo più forte io di Antonio, così col baracchino. Sì, no. Hola, mi sentite? Sì, alla grande. Adesso sono col portatile 747. Va bene. Patti, come mi senti? Oh, io ti sento bene, 9:20 radio 5. Guarda, proviamo senza com'è, senza, normale. 9:10. E la modulazione non gli fa niente, è vero? Appena, ma meno dell'altro, tanto. Vabbè, è una sciagosa, No, ma questo va, No, già va bene, io voglio va bene. Cappa, con le batterie sue da pochi watt, però funziona bene. No, va bene. Tino, dai che io vado a pappare. Tino, ci sei? E avanti. Prova tu. Eia. Scusa, mi sono dovuto spostare in fretta. Fai la prova. Guarda a vedere com'è ti con questo. Fai il primo passaggio, il secondo, così almeno riesco a capire, no? Allora, così è normale, giusto? Così è attaccato, prova a vedere. Rifammelo che c'è stato un po' di rumore qua a casalingo. Comunque, attaccato è perfetta la radio. Cappa, allora, guarda, così è attaccato. E così è attaccato, questo è il portatile. Ma questo è migliore dell'altro, lo sai. 9:15, 9:30 qua. Sì, e poi non va in saturazione la radio. Sì, hai ragionito, ciao Lu. Sì, molto bello il video che mi hai mandato, complimenti. Ci abbiamo detto, migliore il portatile. Una cannonata il portatile. Ma è quello che ha preso da Gianni? Lui è sempre quello. È bello, è un portatile professionale quello, lo conosco. Io l'ho visto prima di darlo, di prenderlo a Gianni, capito? Che l'ha dato a Gianni, nuovo, poi funziona bene, è bello, c'è un sacco di canali. Sì, no. Ho visto che esce una cannonata, ho visto. Ma sì o no? Sì, no. Stavo dicendo, Tino, allora io liscio, arrivo più forte da te di Antonio. Liscio, ma anche io liscio? Ho visto poco fa gli hai dato 9, quanto gli hai dato? Tu sei quasi, sì, 9:18, così liscio. Lui non ci arriva a 9:18, ma sei lì per lì, Perché io ti vedo, lui no, lui è più coperto. Nonostante sia più vicino a te, è più coperto, io invece ti vedo. La Budi la vedo io dal terrazzo, capito? E poi hai qualche picco positivo che va, non è sempre, ma ogni tanto va a toccare il 9:20. È buono, parece un baracchino, è buono. No, ma poi ho levato l'antenna, ti ho fatto un sacco di lavoro quando abbiamo tolto le antenne con Luca. Quest'estate l'allungo ancora, ne metto altri 2 metri, la faccio sollevare ancora. Va bene ragazzi, io vi abbraccio, però dai, poi ci aggiorniamo per quella roba lì. Ciao anche a Luca, complimenti, un bellissimo lavoro hai fatto lui. Era molto meglio il radio, c'è il microfono, bravissimo. Dai, vi saluto, ciao anche Antonio, ciao a Tettino e Luca e a tutti quanti. Se ci siete ci sentiamo dopo, se non pazienza, ciao. Ciao Cla, bravissimo, io ancora non posso giudicare, perché non lo apro il video, poi già le dico due, se è bello o brutto. Anche 4. Ciao Cla, ci sentiamo. Ehi Antonio, se c'ha il video di com'era col microfono e poi ti manda il video di come l'ha fatto, dici bravo, dai, questa volta bisogna dirglielo. Antonio, io come la prima ho visto, non può che migliorare, non è che... che non ho visto i miglioramenti perché non mi va avanti il video, ma già gliene accanto 4 o 6 di persona. Comunque sto mandando scavi anche a fare salsiccia se le volete. Mi sono andate 4 scavi, Luca. Capita, dagli al centro di scienziati. Sì, allora è più OG che si viene, non pena, ho comprato anche un cocorito, giusto per fare la casa degli animali. Capita! C'è il maschio che la sta corteggiando, sta ballando attorno, la sta beccando. Ui, ciao te fissa, via da Edu. Metti un po' di musica almeno. Aspetta che mi hai fatto un messaggio. Ah, va a montare i voci, mi. Ma va bene che sono bambini qua. Ma è un capo. Mi sono dimenticato, scusa. Sono lui, il video ancora non lo sta caricando. Vabbè. Sì, le foto l'ho vista. Sembrava un ferro vecchio, ma penso solo che abbia migliorato. Non riesco a farlo caricare, non so perché. Magari adesso sto cercando un'altra foto di com'era. Ma mi pare che l'avevo già mandata quando lo stavo scarteggiando. Sì, quella. Quello che l'ho. Senta, non te ne ho bisogno. Aspetta. Ciu, come ci ha fatto l'inverno che fa il ciu? Che cosa è che c'è?